con Google Meet c'è sempre un attimo di delay, per cui siamo radiofonici un po' poco, però siamo in zona arancione qui a Bologna, per cui non possiamo fare altro che averti su Google Meet, ahimè, perché ti avrei conosciuto anche di persona molto volentieri, detto questo. Però io presumo che i nostri radioascoltatori non abbiano la più pallida idea di chi sia Sofia Gottardi. Posso chiedere a te di introdurti o ti devo descrivere io? È uno strano modo per iniziare un'intervista, però sì, posso spiegare io come questa cosa faccio. No, niente, io praticamente sono una stand-up comedian, ho cominciato nel 2014 a scena monologhi comici e praticamente nel 2016 ho portato in giro per l'Italia due spettacoli da un'ora tutti interpretati da me, ho fatto qualche programma televisivo e praticamente dal 2020 ho cominciato anche a TikTok e su Instagram, infatti cercate Sofia Gottardi Comedy, vedete che cerco di fare dei video in cui cerco di unire sensibilizzazione femminista, LGBTQ+, antirazzista e comicità, diciamo. Questo è più o meno quello che faccio. Che bella sta cosa. E dunque sei famosissima in realtà, no? Cioè, hai quanti miliardi, cioè ti sei presa intanto miliardi di like su TikTok, ma poi eri già famosa anche prima. Cosa avevi fatto di bello? Per sé, vabbè, la fama di per sé è relativa, nel senso che rispetto alla mia vicinanza di casa sono famosa, rispetto a Chiara Ferragni sono nulla, quindi dipende dalle prospettive. No, precedentemente ho partecipato a programmi TV come Natural Born Comedians e Comedy Central News su Comedy Central, ho fatto una piccola apparizione su Italian Got Talent e ho partecipato al podcast Comedy Live su Audible, comunque tutto incentrato sulla comicità. Adesso su TikTok ho più o meno 65.000 follower, wow. Prezza poco, però non è che mi arriva questa, che non è che adesso sono ricca grazie a questa cosa, quindi wow, però vabbè, l'importante è fare una cosa che ti appassiona di per sé. Ma infatti la mia domanda è poi questa, in tutto questo, vabbè, a parte il Covid, che presumo che tu sia praticamente ferma da un anno, com'era la vita, cioè com'è la vita di uno stand-up comedian, anche facciamo finta che il Covid non ci sia mai stato, ci si riesce a campare? Sappiamo tutti che ormai è impossibile, anche se sei un premio Nobel, però dico comunque a tirare su qualcosa e a costruirsi una carriera è ancora possibile in questo paese? Beh, guadagnare e farsi una carriera certamente sì, a parte il fatto che tecnicamente si può fare una carriera anche se si guadagna poco, perché se carriera si intende crescere artisticamente e crescere anche, avere un po' di fan, certo, si può crescere una carriera. Diciamo che non si può campare, infatti di quelli che adesso cantano grazie alla stand-up comedy, la maggior parte era ricca di famiglia già prima, mentre quelli che sono riusciti a campare dal nulla grazie alla stand-up comedy sono effettivamente pochi, però ci sono di per sé. Se questo ti può far sentire meglio, è la stessa cosa esatta nel mondo dell'arte contemporanea, per cui è così. Sento molta tristezza e malinconia nella tua voce, ti sono molto vicino. Infatti ho messo una fantasia di Chopin come sottofondo, così possiamo piangere insieme, mentre invece dobbiamo esserne contenti. Ma tu oggi non è l'8 marzo, bensì è l'8 marzo, nel senso che noi stiamo registrando questa conversazione, ma verrà sentita l'8 marzo. Cosa ne pensi tu dell'8 marzo, che sei tu che sei così... come si può dire senza fare la figura di un testa di minchia? Dire con la vagina è un modo molto più diretto per dirlo. Sì, tu che sei così vaginata, che cosa ne pensi dell'8 marzo? Penso una cosa in particolare, diciamo che io più che dell'8 marzo Per dare importanza all'8 marzo mi piacerebbe che si desse importanza a certe tematiche tutti quanti i giorni dell'anno. È come se ci fosse una sorta di sensazionalismo attorno alla donna in determinati giorni dell'anno e poi per il resto se ne dimentica completamente. Mi piacerebbe che ci fosse invece sempre una certa sensibilizzazione, tant'è che parlare di certe cose dovrebbe essere normale e non una sorta di ah, oggi è il giorno della donna, parliamo di questa tematica, oggi è il giorno della contro la violenza sulle donne, oggi parliamo di questo, vabbè, morte. Si può parlarne anche altri giorni, non vedo perché no, non so se ho reso l'idea. Sì, no, hai reso l'idea. Poi in realtà avendo appunto visto un po' dei tuoi interventi online, decisamente, cioè capisco decisamente il tuo punto di vista, ma so anche quanta ironia c'è dietro, naturalmente. Ma infatti una delle domande che ti volevo fare, fra l'altro, era appunto sugli haters, perché so che nel momento in cui tu ti esponi, soprattutto tu donna, ti esponi sui social, immediatamente appaiono gli haters. E vabbè, io mi chiedo naturalmente perché appaiono gli haters, ma è una domanda a cui una risposta probabilmente ce lo deve dare uno psicanalista. Però a parte quello, effettivamente. Scusa, non voglio parlarti sopra, mi sono un attimo distratto. No, ma parlami sopra e insultami pure. Io sono un po' masochista in questo, per cui vai tranquilla. Padrona, dimmi tutto quello che devi dire. No, allora, vabbè, gli haters sono presenti anche per persone che si espongono molto meno di me. Perché diciamo che quando una persona ha una vita molto, molto triste, e molti hanno una vita triste, probabilmente anche io, quindi, e da una parte quindi una vita triste e dall'altra invece non è molto educata a parlare con gli altri, si forma questa sorta di concetto che su internet si può dire quello che si vuole, insultano delle persone e dicono è libertà di espressione, e ho capito, ma anche uccidersi è libertà di espressione. Dire non mi piace quello che fa questa persona perché, ma nel momento in cui si passa gli insulti, si passa qualcosa che si vede, che non è una critica costruttiva, c'è qualcos'altro sotto, sottilmente passa il messaggio sono triste oppure sono arrabbiato con la mia vita, vedo questa persona che sta cercando di fare qualcosa e quindi dopo che non mi piace voglio in qualche modo buttarla giù. In realtà penso che sarebbe molto più adatto fare una sorta di seduta dallo psicologo o roba del genere. Poi, per quanto riguarda la questione femminile, a me piacerebbe dirmi che uomini e donne vengono viste allo stesso modo, ma in realtà non è così. Quando donna fai qualcosa che generalmente non è neanche considerato come una cosa culturalmente in Italia, come ad esempio la comicità, sotto una lente di ingrandimento. Diciamo che fare comicità in quanto donna in Italia è come essere visti come un cane che gioca biglie, perché le persone dicono oh che bello quel cane sa giocare a biglie, che cosa fantastica, però dall'altra parte sotto quel quanto è bravo quel cane che gioca a biglie, invitiamolo nella nostra cena eccetera eccetera, sotto c'è il pensiero però è strano, quel cane non dovrebbe giocare a biglie, è strano. Perché c'è l'idea che non dovrebbero far ridere o dovrebbero far ridere solamente in un determinato modo. È l'idea che la donna sia una cosa a sé, sia una sorta di ignoranza. E quindi esattamente come il comico gay viene visto solo in quanto gay, la comica donna spesso viene vista solo in quanto donna. Come comica donna, sì. Naturalmente. Per cui, cioè, esattamente come il cane che gioca a biglie. Capisco benissimo, perché no, stavo per dire sono amico di un elefante che sa dipingere, ma non è vero perché sono solo un suo fan, però c'è un elefante che sa dipingere e la cosa tristissima è che tutti sono lì a dire ma guarda questo elefante che sa dipingere, ma nessuno dice che i suoi quadri sono belli, capito? E presumo che questo funzioni. E dunque tu e tutte le altre donne siete, cioè la gente cosa fa? Non ride oppure ride però dice ah ho riso solo perché è una donna che gioca, perché è un cane che gioca a biglie, come funziona la faccenda? Ma guarda, quello che ti ho detto, una sorta di concezione culturale molto ampia. Questo in modo si può capire in una maniera molto diretta vedendo i commenti sul video di YouTube, perché sta sicuro che sotto i video di Comic Con ci sono molti più commenti in generale, e soprattutto ci sono molte più persone che cercano di dire lei dovrebbe fare così, eccetera, eccetera. A me qualcuno mi ha scritto sotto: guarda, dovresti conoscere Lucy Kay. Sì, io nel 2012 ho scoperto che è BDX, non so se te l'hai scoperto l'anno scorso, Piera. Da una parte c'è questo, c'è molta più critica soprattutto nel web e sui social, però la cosa positiva è che dal vivo è presente una sorta di... Adesso io non so entrare nella mente delle persone, non ti so dire se alcune persone hanno riso meno perché hanno pensato: io sono un uomo, parla di cose da donna e quindi automaticamente non mi interesso, mentre in realtà magari la cosa da donna era semplicemente: oggi sono uscita per strada, ho fatto delle cose, però l'uomo pensa: ah, però lo fa in quanto donna. Parlando di gravidanza, di ciclo, sto parlando di cose normalissime, sì, però no, in qualche modo l'uomo fa più... fa più fatica a trovarsi in queste cose, perché si crea dei pregiudizi che non hanno senso. Ma nonostante questo, posso dire che se comunque ci si impegna a crescere, a migliorare, a lavorare, i risultati arrivano, nel senso che le volte in cui non ho fatto ridere è perché magari ho sbagliato qualcosa, le volte in cui invece sono riuscita a far ridere è perché sono effettivamente riuscita a migliorare. Quindi io non so cosa succede nella mente delle persone, però vedo che comunque funziona, le persone ridono negli spettacoli e molto di più rispetto a quando ho iniziato, e questo mi fa molto piacere, mi fa dire: non importa quello che pensano gli altri, mi devo concentrare sul fare il mio lavoro e basta, perché al di là di quello che pensano gli altri, al di là di... comunque quello che conta è quello che riesco a fare, quello che porto a casa. Esattamente, ti devo interrompere perché mettiamo su un pezzo. Francis Quinlan, ascoltiamo. Sofia, e dunque Sofia Gottardi, cioè cosa non ti è mai venuta in mente di cambiare nome, di metterti un nome d'arte. Cioè, hai un nome, è un bel nome, però molto normale. Io inizialmente al liceo, vabbè, quando ero una teenager, mi facevo chiamare Frida. Tipo nelle primissime due esibizioni che ho fatto, mi facevo chiamare Frida. Frida, come Frida Kahlo. In onore di Frida Kahlo, che adoravo con tutta me stessa e che adoro ancora adesso. Però con il tempo mi sono resa conto che, a parte che nella stand-up comedy bisogna portare il proprio nome e cognome, perché si porta se stessi sul palco, non si interpreta un personaggio, si porta proprio le proprie esperienze di vita, e quindi a questo punto perché non anche il proprio nome e cognome. E poi mi sono resa conto con il tempo che in realtà che un nome era un modo per nascondermi, per così dire, perché non posso essere me stessa e Sofia Gottardi. Cosa c'è di così sbagliato e noioso nel chiamarsi Sofia Gottardi, mi sono detta? Ah no, stai parlando con uno Stefano Pasquini, per cui figurati, capisco tutto benissimo. Effettivamente, e dunque, cioè tu ci stai dicendo che ne so, che Woody Allen è davvero così, no? Cioè nel momento in cui stai facendo questo tipo di mestiere, o sei te stesso oppure non funziona. Io non posso parlare a nome di tutti i comici, ovviamente, però generalmente bisogna essere genuini, nel senso che se tu sul palco cerchi di essere il comico super satirico che dice parolacce, bestemmie, eccetera, però nella vita di tutti i giorni sei una persona molto tranquilla, molto a modo e che non ha nessuna di queste esigenze, stai mentendo a te stesso e al pubblico, stai praticamente interpretando un personaggio che non sei tu. Ho capito, per cui tu maltratti tutti quelli come quelli che i tuoi haters, li maltratti anche dal vivo, cioè quando vai dal panettiere, il panettiere ti dice ah ma però, cioè tu lo massacri così come fai su TikTok. Guarda, mi è successo poche volte che un panettiere mi abbia dato della troia, onestamente, finora ho avuto panettieri molto educati, però cioè sì, nel momento in cui una persona per strada delle cose mi insulta, mi è capitato, ma principalmente sul web, perché sul web hanno una maschera e quindi ti insultano molto più facilmente sul web che per strada. Io sì, rispondo a parole, poi in realtà dipende, perché se ad esempio qualcuno in messaggio privato, perché se qualcuno ti scrive, che so, un commento brutto sotto un video o roba del genere, Io, per come sono fatta io, rispondo con una battuta, perché non si tratta solo di proteggere il mio ego, si tratta di dare intrattenimento alle persone che mi seguono. E quindi se qualcuno mi scrive che cavolo, ne so, no, ieri mi fa questa battuta che hai fatto è degna della Littizzetto, e per lui immagino che Littizzetto fosse un modo per dire banale o roba del genere. E io non è che gli ho scritto, ma no, guarda che in realtà la mia comicità è molto, no, io semplicemente ho risposto no, perché io non mi censuro nei miei video, la Littizzetto sì, infatti lei è ricca, io no, e bisogna rispondere in questo modo. Ho capito, no. ma che cosa è cambiato da quando ti sei messa su TikTok rispetto a prima? Rispetto a prima, molte più persone si sono rese conto che esisto, perché che era presente una sorta di aumento graduale e organico delle persone che mi seguono, perché io tramite televisivi oppure andavo in uno dei vari spettacoli che facevo in giro per l'Italia, lì le persone mi conoscevano, vedevano il mio spettacolo e da lì mi seguivano su Instagram, quindi era una cosa graduale. Invece su TikTok capita che ad esempio metti un video che diventa virale e di colpo nel giro di uno o due giorni ti ritrovi con un po' di follower in più, e quindi questa cosa è un po' strana, diciamo. Sì, no, ma infatti io sono convinto che TikTok sia un po' strano, però tu avevi già un canale YouTube anche prima di TikTok, giusto? Sì, ce l'avevo, però ammetto che le mie competenze tecniche non erano fantastiche. Io ti giuro che so, sono alcune persone che mi dicono ma perché tu non hai messo più video comici, tanti quanto ne metti adesso, prima del 2020, e io risponderei dicendo perché non sapevo montare video, non sapevo sottotitolare, non sapevo fare queste cose. Poi grazie al cielo qualcuno mi ha regalato il programma, mi ha insegnato e quindi adesso posso fare questo. È molto banale il motivo, prima non sapevo fare e non avevo il programma. Per ultima domanda, perché il nostro tempo sta scadendo, ti volevo chiedere, ma in quanti quanti uomini ti importunano perché si sono innamorati di te? Ma onesta, importunano è una parola che non mi piace, nel senso che c'è di persone effettivamente, ci sono quelli che ti scrivono che so, sei carina, sei bella, oppure vorrei che tu fossi la fidanzata. Io personalmente, poi se altri vogliono fare questa cosa, ok, io non la considero una inopportuna, mi sembra un complimento, una cosa carina. E poi ci sono quelli che invece ti scrivono cose più volgari. Fortunatamente quelli che scrivono cose più volgari sono meno rispetto a quelli che scrivono cose con più amore, diciamo. Ah, che bello, questo mi fa piacere, perché comunque la visione che tanti hanno dei social è quello proprio degli haters e della gente che vomita tutto il suo livore, eccetera eccetera, mentre invece sia tu che Benedetta Santini, che abbiamo sentito due o tre settimane fa, appunto ci confermano che c'è anche tanto amore, c'è anche tanta curiosità, tanta passione. E io penso che, io infatti sono un super promotore di quello che fate, proprio perché credo che di base potremmo rendere il mondo leggermente migliore. Tu cosa ne dici? Dico che io non sono così potente da cambiare il mondo di per sé, sarebbe figo esserlo. Diciamo che quello che faccio è un granello in un deserto infinito di tante altre persone. Che dei creator possano cambiare il mondo, no, perché sono persone che hanno il potere di far avvenire tante cose che non siamo noi, purtroppo non siamo politici, non siamo altro. Aiutare magari a fare sensibilizzazione, però cambiamenti concreti e effettivi devono avvenire anche da altre parti. Però sì, sono d'accordo con il fatto che secondo me i social non sono un contenitore, sono un contenuto. La fanno di per sé le persone, quelli che mettono contenuti e quelli che reagiscono ai contenuti. Tipo, se qualcuno mi scrive: guarda, il tuo contenuto non mi è piaciuto, perché elenca i motivi, mi spiega, mi dà anche dei consigli, è diverso rispetto a uno che mi insulta e basta. Vuol dire che c'è un'altra intenzione di fondo. Eh certo, ma infatti, cioè, in realtà fare delle critiche costruttive ha anche un che di generosità. Detto questo, davvero il nostro tempo, ahimè, è finito. Io ti devo salutare, io ti ringrazio moltissimo e spero di poterti ospitare in studio dal vivo prima o poi, magari una volta che fai una serata a Bologna. Sarebbe bello, lo spero anch'io. Intanto ti ringrazio anch'io per avermi ospitato e ti auguro una bellissima giornata. Anche a te. E naturalmente sul nostro blog coxospaziale.blogspot.com troverete tutti i link per poter andare a ridere con te. Se volete seguirmi su Instagram e su TikTok sono Sofia Gottardi Comedy, ma se scrivete Sofia Gottardi secondo me mi trovate pure. Ti cercheremo, ti troveremo e rideremo. Grazie mille ancora e a presto. Ciao! My ode to Trash Po. Oh, I love trash. Anything stinky or stanky or stunky. Anything clinky or clanky or clunky. Yes, I love trash. I have here some Bispo from DeVillo Sloan, created with stamps that were passed on by Moan. And the package included a slightly cracked comb. I love it because it's trash. Oh, I love trash. Anything stampy or trampy or stumpy. Anything clinky or clanky or clunky. Yes, I love trash. Well, have you ever written to Visma in Oz? She might send you her test prints all tied up with gauze. Her assemblage accomplishment merits applause. I love it because it's trash. Oh, I love trash. Anything maily, recycly, or crunchy. Anything clinky or clanky or clunky. Yes, I love trash. I just got a note from my friend Richard C. on the bus from a pizza he'd bought at Aldi and some scrap from the garbage queen, Miss Diane Keys. I love it because it's trash. Oh, I love trash. Anything stinky or stanky or stunky. Anything clinky or clanky or clunky. Yes, I love trash. Cook so spaziale. Leave Barbara D'Urso alone. Barbara D'Urso ha detto che i giornali sono stati troppo cattivi con lei perché ha detto che il suo programma si chiuderà, e hanno ragione. Non è possibile che dopo una vita che Barbara D'Urso ha passato senza riuscire a fare niente né in TV né nelle fiction né niente assolutamente, si ritrovi una piccola cosa che ha costruito con tanto amore che le viene buttato giù. Io non riesco a vivere la mia vita senza provare quell'odio che sento quando guardo i programmi di Barbara D'Urso, quell'odio che mi sale quando li guardo e mi fa sentire viva. Io non voglio passare la vita felice in questa sorta di piattume, di quiete. Io voglio svegliarmi la mattina e incazzarmi e sentirmi una merda guardando i programmi di Barbara D'Urso. Io sono masochista e devi lasciare i programmi ai masochisti, ok? Coxo spaziale. E dunque ringraziamo la fantastica Sofia Gottardi che ci ha deliziato con queste gag e con la sua intervista che esce appunto l'8 marzo, ma io però non ho capito per cos'è questo silenzio. Chiara, sei sicura che non è più da 8 marzo riposarci e lasciare che Pasquini se la veda da solo? Fedra, per me sarebbe meglio ho un bando in scadenza. Chiara, allora facciamo così. Scioperiamo. Fedra, in quanto allo scioperare nelle mie condizioni non ha granché senso. Da lavoratrice dello spettacolo, un atto di protesta sarebbe piuttosto esigere di lavorare. E poi son sempre più scettica sui media e sulle manipolazioni dei movimenti di protesta dal basso. Chiara, ecco, siccome sono molto d'accordo, potremmo proprio dire questo. Io sciopero perché sono stanca e mi devo riposare, tu perché lavori? Fedra, a mio avviso le occasioni di manifestazione istituzionalizzate, tipo giornate internazionali varie, hanno un effetto di normalizzazione e pacificazione superficiale delle coscienze che è inopportuno. Alle reali cause. Chiara, addirittura controproducente ormai. Fedra, vogliamo parlarne Job così creiamo un contributo per il Coxo. Immagino ci ruberebbe massimo una mezzo tretta. Chiara, diventa molto impegnativo per una che si deve riposare, papera che sganascia, Fedra. Potremmo anche scrivere, caricare su Google Traslate e registrare. Chiara, basta già questa chat allora. Fai pure, poi manda al Pascu che è contento che io sono in sciopero. Fedra, ok entrambe, un caro saluto ad Oscar Moroni. E dunque così, Fedra e Chiara mi scioperano giustamente un po' per l'8 marzo e mi lasciano qui da solo a concludere questo coxo spaziale. Se lo sapevo continuavo la mia conversazione con Sofia, ma va bene così. E dunque a questo punto passiamo all'angolo. L'angolo della menzione. E come prima menzione, naturalmente, abbiamo Fedra che mi dice che è uscito Last Letter to Jane, il primo singolo estratto dall'EP Sintesi, debutto da solista di Alessandro Baris. Il brano è stato scritto e realizzato in collaborazione con Lee Ranaldo, chitarrista e cantante dei leggendari Sonic Youth. Il brano è acquistabile dallo store Bandcamp di alessandrobaris.bandcamp.com e venerdì 12, questo venerdì, uscirà il videoclip di Last Letter to Jane, che è realizzato dall'artista francese Luigi Honorat. Già lavoro tra gli altri con Ian Chang, batterista di Song Lux e Kazuma Kino, e ascoltiamoci, anzi prima vi do anche un altro link, che è alessandrobaris.com, così se volete altre informazioni su questo artista li potete trovare, ma ascoltiamoci questo Last Letter to Jane. Last letter to Jane. Last letter to Brianna. Last letter to Francesca. Last letter to Genevieve. Thy no lips. Last letter to Isabel. Hair. No eyes. Last letter to Juliet. Last letter to Catherine. Last letter to Michaela. Last letter to Noemi. Lips. Last letter to Naomi. Last letter to Jane. Is in the mail again. Last plane from this city, grounded. Last wilderness train is off the rails again. Last days together, squandered. Transport ceased. No word from your lips. Last communication ends void. No last sound of your voice. No last gaze at your glance. Last touch of your skin. Last try on your pants. Phone's gone dead, and so has the sea. No thoughts in my head of anything green. The phone's gone dead, and so have the trees. No warmth in my bed. The sky washed clean. No voice. No eye. No hip. No hip. No thigh. No taste, no touch, no touch, no dream, no crutch, no two, one, two, hair, two, knees, one, two, one, two. Ma prima ancora di venerdì, troviamo domani alle ore 18 online, abbiamo una diretta Facebook dalla Galleria Enrico Astuni. Abbiamo Lorenzo Bruni in conversazione con Guido Molinari che parlano di Jonathan Monk, Untitled, Oranges for JB. E niente, questa è una serie di conversazioni che si protrarranno fino al 30 marzo, sempre gestite da Lorenzo Bruni, che parlerà degli artisti che sono nella mostra che è non visitabile alla Galleria Enrico Astuni in questo momento. La mostra si intitola Quattro Idee con Øystein Aasan, Peter Halley, Jonathan Monk e Maurizio Nannucci, a cura appunto di Lorenzo Bruni. E anche qui, per ulteriori informazioni basta andare su www.galleriaastuni.net. E così le menzioni mi finiscono così e io sono rimasto solo, senza Chiara e senza Fedra. E mo che cosa facciamo? Ascoltiamo i Dinosaur Junior, visto che è uscito un nuovo album. Questo è I Run Away. Ecco, scusate, ma devo interrompere tutto perché mi stanno arrivando dei messaggi importanti e hanno a che fare con l'8 marzo e io non posso che alzare le braccia e farli ascoltare anche a voi. Siamo tutti insieme. Sì. Bene. Prego. E sulla questione se si debba continuare o no a riprodurre maschi, il semplice fatto che essi, come le malattie, siano sempre esistiti non significa che debbano continuare a esistere. Ma perché riprodurre le femmine? Perché dovrebbero esserci nuove generazioni? Qual è il loro scopo? Se vecchiaia e morte vengono eliminate, perché riprodursi? Perché preoccuparci di quando saremo morti? Perché preoccuparci se ci saranno o no nuove generazioni? You have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. Noi siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare i pandolini. Avere un uomo che fa la padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di fare quadrare ogni mese il bilancio familiare. Lavare, cucire, pulire, cucinare per chi sostiene che ci mantiene. Noi siamo stufe della pubblicità che deforma la nostra realtà. questa moderna schiavitù. Da oggi in poi non la vogliamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, puttane o sante, venir classificate. Basta con la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità. Ci han diviso fra brutte e belle, ma fra di noi siamo tutte sorelle. Fra di noi non c'è distinzione, all'uomo serve la divisione. Noi siamo stufe di abortire ogni volta col rischio di morire. Il nostro corpo ci appartiene, per tutto questo lottiamo insieme. Ci dicono sempre di sopportare, ma da oggi noi vogliamo lottare per la nostra liberazione. Facciamo donne la rivoluzione. Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoglie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Aritango della femminista. Tango della ribellion. Con la chioma short al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. Desta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Ecco, vi ringrazio, ringrazio Chiara Verde che si è premurata, mi ha mandato tutti questi messaggi importantissimi e io non potevo fare altro che trasmetterli a Coxo Spaziale, e dunque questo è quanto. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. The busy girl. Style and the simple girl buys what she's told to buy and sees her world through the brightly lit eyes of the glossy romance of fashion, where she can learn top tips for the gas cook, success and secrets of a sexual kind, the daily drill, the beautiful hair and the truth about pain. What was Anna Ford wearing? What did Angela rip and say? What will you do when you wake up one morning to find that God's made you plain in a beautiful person's world, and all those quick recipes that let you down, and you're 20 and a half and you're not yet engaged? Will you go look for the boy who says, oh, I love you, let's get married and have kids? The busy girl buys beauty. The pretty girl buys style. And the simple girl buys what she's told to buy. Sees her world through the brightly lit eyes of the glossy romance of fashion. Where she can learn top tips for the gas cook. Successful secrets of his sexual kind. The daily drill, the beautiful hair. In a battle of paradise.